www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa. Attaccata. Già. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce. Mentre nella fabbrica di polli la vita e la morte si assomigliano sinistramente, Kappa e Drago, ma soprattutto Drago, si aggira a tentoni per i meandri mefitici della fabbrica. Drago, ma Drago, ma sei di nuovo cieco? Sì, solo da un occhio, però basta già, eh. Sei orbo. Sì, sono orbo. Potresti mettere su un gruppo di musica elettronica. Perché? Perché ci sono gli Orb, gli Orbitan, William Orbit. Manca l'orbo. Questo è molto divertente. Kappa, lo scotoma si sta ingigantendo. È solo la tua immaginazione, dai, pensala così. Vabbè, sì, fai tutto facile tu. Ma no, non è vero, io porto gli occhiali da sempre, non mi lamento mica, dai, senza occhiali non ci vedo, pensa un po'. Ho capito, ma con gli occhiali sì. Per lo scotoma invece non ci sono gli occhiali. Nemmeno i colliri o i bagni oculari. Non c'è niente, i colliri. No, i bagni oculari. Era quello che ti riferivi. Sì. Lo scotoma non ha cura, resta lì e buonanotte. Ma non ti tiene un po' compagnia almeno? Sì, un po' sì, mi sveglio e apro gli occhi e opla, eccola lì la mia bella macchia nera al centro del campo visivo. Ma come nera? Ma non era grigia, scusa? Sì, adesso è nera. Ah, bene. D'altra parte, la corioretinopatia sierosa centrale è una malattia caratterizzata da un distacco sieroso idiopatico del neuroepitelio al polo posteriore prodotto dal passaggio di fluido dalla coroide nello spazio sottoretinico attraverso un difetto dell'epitelio pigmentato. Quindi capisci che è un bel casino, eh? Kappa! Certo, che bel pigmentato. Io il più bello, il più elegante, il più sinuoso essere volante. Io il più bianco, lucente intrigante, il più perfetto con l'assetto di un aliante. Ridotto così come cadavere spiaggiato, così come animale contagioso ammalato. Ero un sogno, ero il cigno più bello del mondo, sogno infranto. E questo stanotte è il mio canto, e questo stanotte è il mio canto. La fabbrica di polli. Niente da fare, Kappa, la macchia persiste. Cosa puoi fare, Drago? Ma ci deve essere una soluzione. Niente, però le cause adesso sono chiare, eh? Soffro di hurry sickness. Hurry sickness. Ma sì, ho capito cos'è. È la malattia della fretta. Ah. È quando sei sempre lì di corsa che ti sembra di dover fare delle cose, che ci siano delle scadenze, che qualcuno ti soffi sul collo. È in pratica una malattia mentale. Beh, non avevo dubbi sulle tue malattie mentali, Drago, però la hurry sickness proprio mi mancava. Adesso che lo sai, chiediti se anche tu soffri di hurry sickness, perché mi sembri il tipo. Guarda, io non ho macchine davanti agli occhi. Beato te, che ti devo dire. Però in effetti... anche io ho sempre l'impressione di dover fare qualcosa di urgente. E poi ci penso e dico: Cappa, cosa c'è? Vuoi fare tranquillo? Ma cosa devo fare qui nella fabbrica? Punto, cosa devi fare? Niente. Ecco, perché non stiamo tranquilli? Niente di niente. Niente di niente. Quindi mi monta ancora di più l'ansia. L'ansia di non poter fare niente, anche se volessi. Siamo due vecchi pazzi, capo. Due vecchi pazzi lasciati a marcire in una fabbrica di polli. Come quei due che aspettavano Godot. Vladimiro e Stragone. Sì. In effetti somigliamo un po' a quei due lì, eh? Capa. A me non piace l'idea di assomigliare ai personaggi di un irlandese. Io ce l'ho a morte con gli irlandesi. Con gli irlandesi? Perché con gli irlandesi? Perché sono un bastian contrario e poi perché io sono devotissimo alla corona britannica. Cos'è sta storia dei poveri irlandesi schiacciati dagli inglesi? Dai, gli irlandesi sono dei miserabili perché sono cattolici e tutti i popoli cattolici sono poveri. Pensaci un po', in Europa il cattolicesimo ha attecchito in Irlanda, Polonia, Spagna, Portogallo e Italia. L'elite degli stati europei, no? Diciamolo pure, i più straccioni tra gli stati europei. In Germania sono cattolici in Baviera e ho detto tutto. Ah, poi c'è anche l'Austria, che è il più sfigato stato di lingua tedesca sul pianeta. Ma, scusa, Drago, ma cosa hai mangiato oggi? Stai calmo, cosa hai mangiato? Cortisone puro, cosa hai mangiato? È lo scotoma che mi rende idrofobico, capo. Si vede. E poi sono cattolici nelle zone francofone del Belgio, dove i bambini vengono nutriti a Mars e Coca-Cola del discount. Ma quindi cosa vorresti dire? Che cattolicesimo è sinonimo di povertà e protestantesimo è sinonimo di ricchezza. E come mai? Non lo so, Drago. Questo me lo devono proprio spiegare. Ma chi? Ma che ne so? Perché l'Olanda, l'Inghilterra, la Germania, tutta la Scandinavia sono calvinisti, luterani e comunque protestanti? E sono tutti ricchi, onesti, ben organizzati? E noi cattolici siamo straccioni come senso civico all'età della pietra? Me lo spieghi? Drago, calmati! Adesso scende l'angelo della morte! Sul macellaio! Che uccise il toro! Che bevve l'acqua! Che spense il fuoco! Che bruciò il bastone! Che picchiò il cane! Che morse il gatto! Che si mangiò il toro! Che al mercato mio padre comprò! Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò! Cosa vuoi anche tu adesso, eh? Shh, Paul, vai via. Occhio che è Drago è furioso. E tu cosa vuoi dire con occhio? Prendi in giro? Ma no. Ma Drago, sei sbattimento? Sì, sono in sbattimento. Allora non sono l'unico. Lo sbattimento più duro, anzi. Vedi, è anche cieco, Drago. Sono in sbattimento anche perché sbatto dappertutto. Con un occhio solo che funziona non si capiscono le distanze, le profondità. Drago. E poi ogni volta che mi arrabbio adesso la macchia aumenta. E oggi sono molto arrabbiato. Sì, guarda, io tutta la vita che sono in sbattimento. E alla vista disturbi non ne mai avuti. Cosa devo dire? Guarda che ci vedo benissimo io, eh. No, qui in fabbrica mi chiamano Occhio di Falco, Ma chi? Ti chiamano chi? Tu? Gli amici del bar del Giappellino, no? Ma quindi conosci anche Cerutti Gino? Ma quello lo chiamano Drago, Come te, Drago? No, io mi chiamo Drago, non è che mi chiamano Drago. Vabbè, ma come ti chiamano in genere? Cerutti Gino? No, Drago. Quindi appunto sei il Cerutti Gino. Ma chi? Io? Ma chi? Che cosa succederà adesso? Chi è Drago? E chi è Cerutti Gino? E gli amici del bar del Giambellino? Chi sono? Per saperlo, non mancate domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo destrutturato allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com. Vabbè, ma come ti chiamano in genere? Cerruttigino? No, Drago. Appunto, quindi sei Cerruttigino. Ma chi? Io? Ma che ne so? Mi piace, appunto, quindi sei Cerruttigino. E gli amici...